Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati alla seconda puntata estiva di Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Continuiamo a ripercorrere le puntate speciali che hanno contraddistinto negli anni il nostro programma, un excursus che ci terrà compagnia per tutta l'estate. Oggi torniamo indietro di 8 mesi per parlarvi di giovani architetti italiani all'estero. La nostra trasmissione è stata infatti media partner di una fortunata mostra apertasi a dicembre e conclusasi poi lo scorso aprile dal titolo Erasmus Effect, mostra che si è tenuta al Museo Maxi di Roma. A questa esposizione abbiamo dedicato un'intera puntata speciale con 3 giovani architetti che vi hanno esposto le proprie opere e che sono a lavoro nel mondo, tenendo alto il nome dell'Italia. Vi ricordiamo anche che, sebbene la trasmissione sia in vacanza, restano attivi tutti i nostri canali social. Su Facebook e LinkedIn ci trovate come Fuga dei Talenti, mentre abbiamo deciso di prolungare a tutta l'estate l'hashtag Twitter Abolire gli Ordini, insieme alla domanda sul destino a cui affidare queste lobby corporative, residui di un'epoca passata. Cosa ne dite? Lasciamo in vita gli ordini professionali? Oppure li riformiamo drasticamente? Oppure ancora li aboliamo tout court per spianare finalmente la strada all'ingresso di forze giovani, fresche, più abituate alla concorrenza nella nostra economia? Diteci la vostra scrivendo a giovanitalenti@radio24.it. Ripeto, giovanitalenti@radio24.it. Per cominciare oggi vi riproponiamo anche l'approfondimento che abbiamo realizzato con il Censis a proposito dei giovani italiani all'estero, contenuto nel 47° rapporto annuale. Subito dopo non perdetevi la nostra puntata speciale con gli architetti di Effetto Erasmus. Sentiamo ora Giuseppe Roma, direttore del Censis. Abbiamo 1 milione di giovani che hanno un loro progetto di vita, che hanno una loro forza anche interiore di voler affermarsi, e sono anche giovani nativi digitali che conoscono il mondo molto grande, e a questo punto, se in Italia non c'è spazio, vanno all'estero, che è una cosa molto diversa e meno perdente del vecchio immigrato che poi invece aveva sempre l'idea di ritornare in patria al suo obiettivo ultimo. Qui sono giovani che sanno che il mondo è grande, l'Europa è praticamente tutta interconnessa, se il nostro paese non li sa utilizzare le vanno a trovare da un'altra parte. Talenti che si mettono sostanzialmente sul mercato. Quali sono i fattori decisivi, secondo la vostra indagine, nella scelta di andare all'estero? Sicuramente migliorare la propria condizione professionale, ma anche migliorare la propria qualità della vita. I motivi di espatrio considerati più intollerabili fanno segnare, oltre all'assenza cronica di meritocrazia, lo sappiamo, una certa arretratezza del sistema paese, forse anche imbarbarimento, no? Sì, viene proprio detto, certo, un paese civilmente un po' imbarbarito, però poi ci sono anche altre cose, la mancanza di servizi. E un altro fattore molto interessante è come i giovani si sentano discriminati. Da noi non c'è solo una questione di una certa gerontocrazia, ma anche il fatto che ai giovani viene dato meno peso e meno importanza, come se si sentissero un po' sfruttati perché massa di manovra e non veri protagonisti come avviene negli altri paesi. Le storie di questa settimana di Giovani Talenti ci portano a conoscere un interessante spaccato del mondo dell'emigrazione dei nostri giovani architetti. Lo facciamo a cavallo delle due sponde dell'Atlantico, tra Spagna e Stati Uniti, insieme ad alcuni dei protagonisti della mostra Erasmus Effect. Nome: Elena Manfredini. Carmelo Zappulla. Fabrizio Barozzi. Età: 39 anni. 35 anni. 37. Città di origine: Bologna. Siracusa. Rovereto. Studi: ingegneria in Italia. Laurea in architettura a Palermo. Architettura a Venezia. Anno in cui ha lasciato l'Italia: 97. 2004. 2004. Perché? Ho vinto una borsa di studio alla UCLA. Per cercare più opportunità legate all'architettura contemporanea. Per aprire il mio studio professionale. Qual è il lavoro svolge attualmente? Architetto e insegno composizione architettonica. Sono architetto e insegnante di progetto. Sono architetto e anche io docente di progettazione. Dove? Los Angeles. Barcellona. A Barcellona. Tornerai? In vacanza e forse in pensione. Forse un giorno. Forse anch'io. E E avrete tutti riconosciuto Aerodinamica, colonna sonora di un film cult della cosiddetta generazione Erasmus, L'appartamento spagnolo, film che ha reso l'Erasmus uno stile di vita, una tendenza tra gli studenti universitari. Do quindi il ben ritrovato a Pippo Ciorra, curatore della mostra Effetto Erasmus, inaugurata 2 giorni fa al Maxi di Roma, grazie alla quale portiamo a giovani talenti 3 storie di giovani architetti emigrati. Pippo, quale effetto ha avuto l'Erasmus, o più in generale le esperienze di studio all'estero, nel forgiare una nuova generazione di architetti globali, e chi ne ha beneficiato maggiormente, l'Italia o gli altri paesi? Secondo me ne hanno beneficiato tutte e due. L'Erasmus ha consentito agli studenti di architettura italiani di andare molto più veloci dei loro professori, e lo dice un professore, quindi hanno potuto crescere, imparare, esercitare l'architettura con più apertura, libertà e progressività rispetto alle scuole da cui provenivano, e quindi ne hanno certamente tratto vantaggio loro, ma ne ha in qualche modo di riflesso tratto vantaggio anche la scena nazionale, che è stata, come dire, trascinata avanti in questo modo di riflesso dai suoi giovani. Ricordo anche che ai primi 10 ascoltatori che oggi scriveranno una email a giovanitalenti@radio24.it con i loro dati di contatto regaleremo altrettanti biglietti omaggio per la mostra. Andiamo ora a conoscere i protagonisti della nostra puntata, iniziando con Elena Manferdini dalla California. Elena, tu all'architettura ci sei arrivata passando dall'ingegneria, la svolta della vita alla forma di un vecchio biglietto aereo con il quale nel 97 ti trasferisci negli Stati Uniti. Per fare cosa e quanto quell'esperienza ti ha cambiato la vita? Io sono partita da Bologna con destinazione America quando avevo 22 anni, quindi abbastanza giovane. All'epoca l'Università di Bologna aveva uno scambio culturale con la UCLA, ho iniziato questo scambio che doveva essere di 9 mesi, invece è diventata un'esperienza di vita di 15 anni. La dimensione del viaggio come viatico per una vita globale vissuta da protagonisti. Carmelo Zappulla, tu un Erasmus lo avevi anche vinto a Madrid, ma hai preferito uno stage in Olanda. Quanto quell'esperienza ha segnato la tua vita? Guarda, molto, è stata un'esperienza che ha stimolato le mie inquietudini, la mia curiosità, la voglia di crescere come persona e come architetto. Era il 2000, avevo 22 anni, e quell'esperienza nello studio di Maurice Nio fu molto breve ma intensa. Alla fine poi capì che dopo la laurea me ne sarei andato in un paese dove poter mettere in pratica ciò che avevo e avrei continuato ad imparare. E Fabrizio Barozzi, il viaggio nel tuo caso ti porta a Siviglia, Andalusia profonda, con una borsa di studio. Anche a te chiedo quanto quell'esperienza ha segnato il tuo percorso. Anche per me l'esperienza a Siviglia è stata assolutamente fondamentale, capitale direi, sia da un punto di vista personale, perché mi ha permesso di scoprire che esistono altri orizzonti al di fuori dell'Italia, e anche da un punto di vista professionale, perché è stata quella che mi ha permesso poi di iniziare i primi passi della mia carriera. Torniamo ad Elena. In Italia hai studiato ingegneria edile all'Università di Bologna. Quale voto daresti tu all'Accademia Italiana a posteriori, e soprattutto quanto i nostri titoli di studio vengono considerati all'estero? In realtà l'Università Italiana prepara bene gli studenti, li prepara bene in teoria, non sempre nella pratica. Non viene riconosciuta sempre allo stesso livello delle altre nazioni. In America, ad esempio, una laurea di 5 anni è considerata come un bachelor di 4, e il PhD non è considerato allo stesso livello del PhD americano. Carmelo, anche a te pongo la stessa domanda. Nel tuo caso ricordo che hai studiato architettura a Palermo. In Italia secondo me non ci sono università d'architettura riconosciute internazionalmente, che sono università basate su una struttura antica, quindi andrebbero snellite nei contenuti, dovrebbero attualizzarsi, appoggiare la ricerca e lasciare molto più spazio ai giovani. E inoltre il rapporto tra docente e alunno è molto distante, cosa che non aiuta la formazione degli studenti. Fabrizio, laurea all'Istituto Universitario di Architettura di Venezia, invece per te qual è il tuo personale voto all'Università Italiana? Io credo che l'Università Italiana, per quanto riguarda architettura, sia in una situazione drammatica, direi. Io personalmente ho una relazione come di amore e odio con l'Università Italiana, un certo apprezzamento per il bagaglio culturale di alcune eccellenze che esistono ancora nell'università, e un odio profondo perché tutto questo, anche bagaglio culturale, questo sistema le impedisce assolutamente di guardare verso il futuro, e è bloccata in riflessioni che sono ormai vecchie e passate. Torniamo ad Elena. Con enormi sacrifici completi in California, un master in architettura alla UCLA, quanto è diverso nel concreto il rapporto docenti-studenti sul Pacifico, e soprattutto se tu rinascessi te ne andresti a studiare direttamente all'estero? L'università americana ha rapporto insegnante-studente 1 a 12, mentre in Italia quando ero partita era 1 a 600. L'università americana è molto più pragmatica, in modo più semplice, diretta, e onestamente direi direttamente all'estero. Carmelo, per te invece l'avvio di un dottorato a Barcellona nel 2004, anche a te chiedo quali differenze di insegnamento hai trovato tra Italia e Spagna? L'insegnamento l'insegnamento in Spagna è molto più diretto e informale, sebbene anche la ESAV di Barcellona, l'università dove ho studiato, sia un'università comunque obsoleta secondo molti punti di vista, comunque in Spagna ci sono ottime università di architettura anche riconosciute internazionalmente e comunque c'è una maggiore cultura dell'architettura contemporanea. Se potessi tornare indietro andrei a studiare probabilmente direttamente o in Inghilterra oppure negli Stati Uniti e poi in ogni caso mi trasferirei a Barcellona di nuovo. Fabrizio, l'università a Siviglia era completamente diversa da quella italiana, ci scrivi. In che senso? E la prossima volta andresti direttamente in Andalusia a studiare? Non mi riferivo solo all'università a Siviglia, sino in Spagna in generale. In realtà là c'è una strettissima relazione fra il mondo accademico e il mondo professionale. L'uno alimenta l'altro, quindi entrambi ne beneficiano. In Italia è completamente diverso, il mondo accademico e il mondo professionale nemmeno si rivolgono la parola e questo fa sì che sia uno sia l'altro rimangano bloccati. Abbandoniamo ora il vostro percorso di studi per approdare alla fase professionale. Tra il 97 e il 2000 ho dormito pochissimo, ho lavorato moltissimo e scoperto le risorse umane e intellettive che possedevo, ci scrivi Elena. Dopo tanti sacrifici fatti per una laurea italiana e un master americano, qual è stata la risposta e curricula che ha inviato tra estero e soprattutto Italia e qual è stato negli anni il feedback che hai ricevuto dal tuo paese in termini di opportunità? Dopo la laurea ho ricevuto molte proposte di lavoro in Austria, Svizzera, UK, America, in Italia, molta curiosità per sapere quello che avevo studiato, erano le prime anni digitale, portavo in Italia cose diverse, ma niente di veramente concreto. Volevo comunque a quel punto fare un'esperienza lavorativa all'estero. Beh, e ci credo l'America. Pure. Ci credo pure. Carmelo, Fabrizio, quali tentativi in Italia se li avete fatti e con quali risultati? Partiamo da Carmelo. Immediatamente dopo la laurea ho avuto una breve esperienza di lavoro in Inghilterra, a Londra e poi mi sono trasferito a Barcellona e non ho cercato di non interrompere mai la relazione con l'Italia cercando dei lavori puntuali, ma non è mai successo. La mia intenzione comunque non è mai stata quella di tornare, ma più che altro di aprire un dialogo fatto di collaborazioni puntuali. Fabrizio? Nel mio caso non c'è stato nessun tentativo di rientro, ma adesso da qualche anno lavoro anche in Italia e ritorno sempre per questioni di lavoro con molta speranza, però alla fine rimango spesso purtroppo deluso. Da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi, ma da qua se ne vanno tutti. Elena, riassumo la tua storia ora. Resti a lavorare in California, a 29 anni divieni docente di composizione architettonica, ottieni la carta verde americana per abilità straordinarie fino a quando, continuando a insegnare nelle più prestigiose università, apri uno studio di architettura a Venice, nei pressi di Los Angeles. Di cosa ti occupi? Principalmente sono un architetto e design, lavoro con molti musei, al momento sto facendo tre progetti di public art. Carmelo, dopo l'avvio del dottorato a Barcellona, ne approfitti per avviare collaborazioni in Spagna fino alla nascita nel 2007 del tuo studio External Reference a Barcellona insieme a un tuo socio. Di cosa vi occupate? Il nostro studio si occupa all'inizio di progetti urbani, architettura, ultimamente più di padiglioni e spazi espositivi, quindi ci sono, insomma, abbiamo clienti in Spagna ma anche in Corea, in Russia, quindi abbiamo una rete di clienti, diciamo, abbastanza internazionale. Fabrizio a Siviglia inizia a lavorare nello studio di Guillermo Consuegra, un master accelerato lo definisci, poi anziché trasferirti negli Stati Uniti, come prevedevi, finisci per aprire uno studio anche tu a Barcellona. La spinta ideale te la danno i concorsi, proprio loro, perché in Spagna i concorsi funzionano e possono favorire i giovani di talento, vero? Questo era vero, in realtà il sistema di concorsi in Spagna è un sistema che funzionava abbastanza bene, c'era una serie di meccanismi che rendevano il sistema abbastanza meritocratico e effettivamente anche dei giovani potevano avere delle buone opportunità lavorative. Domanda di rito, risponde Elena per tutti, come vedi l'Italia dall'estero, cosa c'è che non va? È una proposta concreta da cui ripartire. Cominciare con svincolare il budget dell'università da quello dello Stato, perché insieme in molte università svincolamento del budget con lo Stato crea enormi problemi. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata speciale parliamo della vicenda di Elena Manferdini, 39 anni, Carmelo Zappulla, 35, e Fabrizio Barozzi, 37, giovani architetti al lavoro tra Stati Uniti e Spagna. Elena, Carmelo e Fabrizio sono tra i protagonisti della mostra Erasmus Effect, effetto Erasmus, dedicata al lavoro e alle storie dei nostri giovani architetti espatriati, mostra di cui Giovani Talenti è, lo ricordiamo, media partner. Effetto Erasmus è ospitata al Museo Maxi di Roma. Ripartiamo con Elena. Mi ha molto colpito la definizione che hai dato dell'etica del lavoro negli Stati Uniti, un'etica che è alla base stessa della meritocrazia anglosassone. Allora ce la spieghi in breve e se secondo te è esportabile anche in Italia? Sì, in America il lavoro è ciò che definisce la dipendenza e dunque anche il valore dell'individuo. in qualche modo lavoro e retribuzione fino a certi livelli sono proporzionali al merito, quindi questa è una cosa importantissima. E quindi in America il self-made man è ancora possibile. In Italia non ho mai visto, non ho mai trovato questa apertura, non credo che sia possibile. Carmelo, anche con te parliamo di questo concetto di merito che tu hai potuto ritrovare beneficiandone in un paese latino qual è la Spagna, quindi non è poi così alieno alla nostra cultura. Come questa meritocrazia iberica contribuisce a forgiare un ambiente più aperto e stimolante di quello italiano nel settore dell'architettura? Personalmente, secondo la mia esperienza, posso dirti che sono andato a Barcellona e con le mie forze sono riuscito a costruire uno studio, una rete di clienti senza contatti politici o amici di famiglia influenti. Lo stesso posso dire della mia carriera docente, non so nel resto della Spagna in generale come funzioni. Poi ho vissuto un altro tipo di meritocrazia che è invece quella che supera le dinamiche proprie del territorio nel quale si lavora. Ho clienti che mi hanno contattato perché hanno visto e apprezzato i nostri progetti pubblicati o su internet o nelle riviste, quindi possiamo parlare di una meritocrazia che si definisce più su una scala globale, no? Su una geografia globale. Ecco, la parola globale è chiave per la domanda che rivolgo invece a Fabrizio. Visione globale di giovani professionisti la cui residenza fisica è alla fine solo un dettaglio. Lavorate voi architetti italiani nel mondo ed esponete in tutto il globo. Con te quindi vorrei un po' chiudere il cerchio prendendo spunto dal tema. Quanto vedi l'architettura italiana e gli architetti italiani inseriti in questa crescente globalizzazione? Siamo rimasti un'isola con le sue regole arcaiche o siamo entrati anche noi nel terzo millennio? No, purtroppo siamo rimasti un'isola. Io credo che l'architettura italiana purtroppo è assolutamente fuori da un circuito internazionale. È un po' duro dirlo, però possiamo dire che quasi sembra che l'architettura italiana non esista in qualche modo, vista da fuori. E purtroppo anche il mondo dell'Accademia italiana non ha, sembra, nessun interesse a guardare oltre frontiera cosa succede. Pippo Ciorra, effetto Erasmus può sicuramente essere un'occasione invece per portare i nostri sguardi oltre confine. Come è nata l'idea di effetto Erasmus? L'idea di effetto Erasmus è nata dalle cose che hanno detto i tre architetti, dal fatto che io continuo a vedere. Non è vero, gli architetti italiani sono nel mondo globale, l'architettura italiana nel suo complesso no. Allora io volevo far vedere che i nostri architetti sono capaci e come più degli altri, e quindi quando vanno in un contesto che li accoglie sanno affermarsi, e volevo, come dire, nello stesso tempo richiamare il mio paese, la mia università, il mio contesto ad adeguare le condizioni affinché anche in Italia gli architetti possano affermarsi con la stessa chiarezza e possibilità. Chi e cosa potranno trovare da qui a inizio aprile, lo ricordiamo, la mostra resta aperta 4 mesi, i visitatori al Maxi? Potranno trovare 3 tipi di storie. Una storia del viaggio, perché l'architettura è fatta da persone che si muovono, si diffonde come la viaria, no? Con le navi e con gli aerei, e quindi storicamente gli architetti, soprattutto italiani, sono andati molto all'estero per molte ragioni. Poi troveremo i progetti di questi architetti che hai sentito stamattina e di altri che raccontano il loro lavoro e ci fanno vedere i loro progetti. E poi troveremo storie, no? Che abbiamo peraltro preso dalla vostra trasmissione, di persone che non sono nemmeno architetti, ma che ci raccontano la loro esperienza e che diffondono questa nostra presenza nel mondo e la voglia di crescere che c'è comunque nel paese e nelle persone del paese. Tutto questo costruisce una geografia che ci serve in qualche modo a dare un contributo ad andare avanti. Ricordo ancora una volta che ai primi 10 ascoltatori che invieranno oggi i propri contatti a giovanitalenti@radio24.it regaleremo un ingresso omaggio alla mostra Effetto Erasmus, aperta fino al 6 aprile al Maxi di Roma. Ne approfitto per salutare Elena Manferdini, Carmelo Zappulla e Fabrizio Barozzi, e per una volta la domanda finale la riserviamo all'ospite. Allora Pippo, quale consiglio daresti tu a un giovane architetto che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie di uscita a un espatrio? Certamente gli consiglierei di andare a fare un'esperienza, se è molto giovane, un'esperienza educativa all'estero e da quello partire, però gli consiglierei di tenere un piede comunque in Italia, perché il futuro è ancora più interessante rispetto a quello dell'espatrio, ma è un futuro di un'architettura cloud, di un'architettura in cui il luogo in cui la persona sta per lavorare non è importante, ma che costruirà relazioni con altre persone in altri paesi e da lì partire per essere presenti nel mondo, e lo si può fare anche stando in Italia adesso. Dopodomani me ne andrò da questi lidi, cercherò asilo negli Stati Uniti, e a Livorno è pronto già un battello che porterà lontano il mio cervello, e ad Ancona è già pronto un bastimento che porterà il cervello via col vento. Ma il professore organizza un congressino, chiama un famoso antropologo cubano, ma il segreto del successo sa qual è? Che si faccia un abbondante coffee break, ma il professore organizza un congressino, invita anche il portavoce del Cremlino. Fischia il vento, in furia la bufera, scarpe rotte, pur bisogna andare. Ma il segreto del successo sa qual è? Che si faccia un abbondante coffee break. Ma il professore organizza un congressino e invita un neurochirurgo di Berlino, e invita un fenomenologo israeliano, e invita un endocrinologo ungherese, e invita anche uno psichiatra portoghese, e invita un gastroenterologo francese. Ma il segreto del successo sa qual è? Che si faccia un abbondante coffee break! Siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova immigrazione professionale. Terzo appuntamento con andata e ritorno. Oggi l'andata di Aldo Mencaraglia si concentra sulla conoscenza delle lingue straniere per sfondare nel mercato del lavoro all'estero. Conoscere bene la lingua straniera prima di partire dall'Italia può fare la differenza tra l'avere successo all'estero e invece fare molta fatica. Una costante che mi viene comunicata da parte di italiani che si trovano già all'estero è la sopravvalutazione delle proprie conoscenze linguistiche prima di partire. Una volta arrivati a destinazione è molto probabile che ci si renda conto di non sapere la lingua straniera come si pensava di saperla. Come risolvere il problema? Fare del miglioramento della conoscenza della lingua straniera la priorità principale quando siete ancora in Italia. Al giorno d'oggi esistono una miriade di risorse per tutte le tasche. Ognuno di noi apprende in modo diverso ed è quindi importante provare diverse risorse per decidere quella che fa il caso vostro. Live Mocha è uno degli esempi più popolari di comunità online dedicata all'apprendimento delle lingue, dove potete iniziare da zero e progredire facendo leva sull'aiuto della comunità di madrelingua. Guardare film o telefilm in lingua originale aiuta a fare l'orecchio alla conversazione di tutti i giorni nella lingua straniera. In questo contesto YouTube è una miniera di video che insegnano in modo semplice a comprendere meglio gli stranieri. Per chi invece preferisce la radio, TuneIn è un sito che mette a disposizione lo streaming dal vivo di più di 70.000 radio di tutto il mondo. La scelta di lingue e di programmi radio è enorme e di sicuro troverete la radio straniera che desterà il vostro interesse. Ricordatevi che la capacità di comunicare nella lingua straniera è spesso più importante delle vostre competenze ed esperienze lavorative. Tutte le info su www.italiansinfuga.com, email italiansinfuga@gmail.com. Il ritorno di Lorenzo Pompei si concentra invece sul varo ufficiale della Fonderia dei Talenti, spin-off della legge contro esodo, di cui Pompei è general manager. In questa puntata ci spiega come usare la piattaforma per fare ritorno professionale in Italia. La Fonderia dei Talenti è una rete di professionalità italiane nel mondo ed è un tentativo di geolocalizzare tutti gli italiani che sono espatriati per motivi professionali o d'altro e vogliono in qualche maniera mantenere un contatto con l'Italia a livello professionale. È possibile quindi caricare un proprio profilo professionale, incluso anche un curriculum, per sia rendersi visibile ad altri utenti sulla piattaforma in tutto il mondo, oppure anche per rendersi visibile ad aziende in Italia che sono interessate a profili di recruiting. In quel caso è possibile anche caricare un proprio curriculum che viene poi selezionato dalle aziende. Rammento che la Fonderia dei Talenti è un'iniziativa totalmente no profit, gratuita. I professionisti italiani che attualmente risiedono all'estero possono, tramite la Fonderia dei Talenti, identificare aziende italiane interessate a profili internazionali come loro, possono quindi, tramite l'iscrizione al sito, caricare il proprio curriculum o da LinkedIn o tramite il proprio PC, dando disponibilità al proprio profilo, permettono alle aziende italiane di identificarli nel quadro anche della legge 238 contro esodo e di essere contattati direttamente da queste aziende. Le aziende italiane al momento non dispongono di strumenti di facile utilizzo per reperire risorse all'estero. La Fonderia dei Talenti invece si propone in maniera totalmente gratuita come uno strumento per le aziende italiane, sia grandi che piccole, per o trovare risorse professionali da importare in Italia, oppure anche trovare collaborazioni direttamente nei vari paesi del mondo con utenti che risiedono in quei paesi. Tutte le info su www.lafonderia.org, email info@lafonderia.org.